GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. La guerra in Israele, le possibili reazioni a catena in Occidente innalzano lo stato di allerta anche in regione. Oltre la massima attenzione sui siti sensibili, intensificati i controlli sui migranti provenienti dalla rotta balcanica, tra i quali, ha detto la Premier Giorgia Meloni, potrebbero infiltrarsi fondamentalisti islamici. A tutte le questure un dispaccio ministeriale con le modalità di implementazione delle attività di controllo ai confini e nelle città. Simulazione di guerra al liceo Maiorana di Pordenone, ma per insegnare agli studenti il rispetto dei diritti umani. Lo ha organizzato la Croce Rossa. Il giorno dopo la condanna all'ergastolo di Vincenzo Paglialonga per l'omicidio della pensionata Lauretta Toffoli, nel condominio Ater dove si è consumata la tragedia c'è poca voglia di parlare, ma chi lo fa esprime soddisfazione per la sentenza. Coltivavano marijuana e hashish in casa, una coppia di Coseano arrestata dai carabinieri per spaccio. Ad Aprile Marittima è inaugurata Nautilia, dedicata ad un settore, quello delle imbarcazioni di seconda mano, in crescita. L'inflazione e il ridotto potere d'acquisto hanno colpito infatti i beni non essenziali. 2.600 euro in più all'anno per ogni dipendente e quanto potrebbe costare alle piccole e medie imprese della regione la rivalutazione del TFR lasciato in azienda dai lavoratori, a dirlo uno studio della CGA di Mestre. Triestina di nuovo in campo oggi a Fontana Fredda contro il Lumezzane, per l'Udinese amichevole in terra croata questo pomeriggio. Nella pallanuoto doppia trasferta per le squadre di Trieste, gli uomini scenderanno in vasca a Bologna, le orchette a Rapallo. Ancora buongiorno, ben ritrovati da Daniele Lettige e Francesca Vigori. Si alza dunque anche nella nostra regione il livello di allerta a seguito dell'attacco terroristico di Hamas in Israele e l'acuirsi della crisi. Attenzione massima, lo ha ribadito la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sulle possibili infiltrazioni di elementi fondamentalisti attraverso la rotta balcanica che ha il Friuli Venezia Giulia, in particolare il Carso Triestino, quale punto di accesso nella nostra nazione. Con la guerra in Israele è aumentato anche in Italia il timore di attacchi terroristici o di episodi di violenza da parte di persone radicalizzate. Oltre ai presidi di sicurezza nelle città italiane, l'attenzione è rivolta anche ai punti di accesso dell'immigrazione irregolare nel nostro paese, tra cui Trieste. Lo ha ricordato la stessa Presidente del Consiglio Meloni durante un punto stampa a Maputo, in Mozambico. Credo che alcune valutazioni si debbano fare, insomma, anche sul tema, no? Di controllare chi entra, chi arriva, insomma, particolarmente sulla rotta balcanica, no? La stessa posizione è stata ribadita dal ministro degli esteri italiani, che dice: bisogna verificare che tra i migranti irregolari non ci siano terroristi che cercano di entrare in Europa mischiandosi. E venerdì un dispaccio ministeriale ha raggiunto questure e prefetture per illustrare i controlli. Controlli che, puntualizzano dalla questura di Trieste, si fanno già. Questa è una intensificazione dovuta al conflitto in Medio Oriente e il dispaccio ne contiene le modalità. Le misure di vigilanza, spiegano il prefetto Signoriello e il questore Ostuni, sono aumentate fin dallo scoppio della guerra, soprattutto per quanto riguarda gli obiettivi sensibili, che comprendono la sinagoga, la scuola e il museo ebraico, ora sorvegliati 24 ore su 24, ma anche le sedi istituzionali, le autostrade e le ferrovie. Tra i controlli accresciuti figurano, come stabilito, anche quelli della polizia di frontiera per gli accessi di stranieri dalla rotta balcanica. In questo senso l'attenzione, viene ribadito, è massima. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Far capire ai ragazzi come proteggere la vita e la dignità umana anche nel contesto di un conflitto armato è l'obiettivo dell'esercitazione organizzata al liceo Leopardi Maiorana di Pordenone in collaborazione con il comitato cittadino della Croce Rossa, un gioco di ruolo che simula una situazione di guerra in cui sono stati coinvolti una quarantina di studenti. Siamo andati a vedere. Prigionia, salvataggio di soldati feriti, gestione di un quartier generale militare. Una quarantina di ragazze e ragazzi si sono cimentati in un gioco di ruolo che simula un conflitto armato nell'iniziativa organizzata dal Comitato della Croce Rossa di Pordenone con il liceo cittadino Leopardi Maiorana. Abbiamo simulato una specie di rapimento in un campo di prigionia e ci hanno trattati, tra virgolette, come vengono trattati nei campi prigionia. Che effetto vi ha fatto? Beh, sicuramente di paura è molto strano, perché noi ci svegliamo alle 7 di mattina, ci prendiamo il caffè con calma e invece loro non possono neanche parlare, avere diritti zero. È stato molto impressionante, anche perché sono delle realtà che noi vediamo come impossibili, distanti da noi, quindi il fatto di trovarci dentro è molto pesante e traumatizzante. A coordinare le squadre 32 volontari specializzati e 6 istruttori di diritto internazionale umanitario. Obiettivo: insegnare ai più giovani come proteggere vita e dignità umana anche nei conflitti armati. Per il Comitato della Croce Rossa di Pordenone, Fabio Bette. L'obiettivo principale è quello di far capire agli studenti quali sono le regole del diritto internazionale umanitario e di comprendere maggiormente quello che purtroppo anche ai giorni nostri sta accadendo. Claudia Beacco, docente al Liceo Leopardi Maiorana. In questo tempo sicuramente segnato dai conflitti internazionali, da delle immagini che ci impressionano e che i nostri ragazzi, per quanto passino per essere dei ragazzi superficiali, in realtà vedono e ne entrano in contatto, sicuramente l'esperienza di oggi li ha fatto toccare con mano la drammaticità e l'importanza di imparare che ci sono delle regole che preservano la dignità umana e il valore della persona anche in situazioni di conflitto. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. La condanna all'ergastolo di Vincenzo Paglialunga non era scontata, lo affermano i legali di parte civile all'indomani della sentenza della Corte d'Assise di Udine, dove si è svolto il processo per l'omicidio di Lauretta Toffoli, 74 anni, uccisa con 36 coltellate nel suo appartamento. La pensionata abitava nello stesso condominio di Via Valle a Udine, dove risiedeva anche Paglialunga. Il giorno dopo la sentenza di primo grado di ergastolo per Vincenzo Paglialunga per l'omicidio l'anno scorso della pensionata Lauretta Toffoli, in via della Valle 4, nel condominio Ater dove si è consumata la tragedia, c'è poca voglia di parlare. Sul citofono il nome del 41enne pugliese Paglialunga, diversi reati alle spalle, problemi di salute e dipendenza dall'alcol, non compare più. Nel quartiere di San Rocco, definito tranquillo dai suoi residenti, Lauretta viene descritta come una signora dolce e ben voluta da tutti. C'è soddisfazione tra i passanti per la decisione della Corte d'Assise, riconosciuta l'aggravante dell'aver commesso il fatto a scopo di rapina, un diverbio sulla porta d'ingresso intorno all'una e mezza di notte per dei beni d'argento sottratti in precedenza dal Paglialunga alla signora, probabile fattore scatenante della violenza. Era appena uscito dal carcere, era senza soldi e quella stessa sera aveva reciso il braccialetto elettronico degli arresti domiciliari. L'ergastolo non era scontato, affermano Lorenzo Reyes e Paola Cannata, legali di parte civile delle due sorelle Toffoli, Anna e Nella, e del figlio. È sempre molto difficile provare l'aggravante della crudeltà, che infatti è caduta. Sono state però considerate le circostanze di un'aggressione avvenuta di notte a scopo di rapina e i danni di una persona anziana, commentano i legali. I giudici tuttavia non si sono espressi sulla quantificazione del danno, stimato in 350.000 euro per il figlio e 240.000 euro in totale per le sorelle. Questione rimandata in sede civile senza liquidazione di una provvigionale, il che obbligherà le parti civili a sobbarcarsi ulteriori spese processuali, consapevoli del fatto che difficilmente Paglialunga, alla luce della sua condizione finanziaria, possa alla fine risarcire il danno causato. Ha già annunciato ricorso il collegio difensivo. L'avvocato Pier Giorgio Bertoli parla di clamoroso errore, processo basato non su prove ma su indizi di colpevolezza. Non c'è traccia di DNA né di impronte digitali di Paglialunga sulla scena del crimine, afferma Bertoli. Spera che Trieste, dove si celebrerà il processo in corte d'assise d'appello, sia una sede più serena nella valutazione dei fatti. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Carabinieri della stazione di Fagagna hanno arrestato due coniugi di 35 e 28 anni residenti a Coseano con l'accusa di produzione e detenzione di marijuana e hashish ai fini di spaccio. Durante una perquisizione nell'abitazione della coppia sono stati trovati 405 grammi di marijuana, 10 grammi di hashish, due bilancini di precisione e attrezzatura varia per la coltivazione e dessicazione occultata nel locale caldaia. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro, mentre per i due, sono stati disposti gli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida per direttissima, come disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine. Volontari e volontarie della squadra della Protezione Civile sono presenti oggi e domani nelle piazze di diversi comuni della regione per la campagna Io non rischio, dedicata alle azioni con cui ciascuno di noi può contribuire a ridurre i rischi legati alle calamità naturali. A due giorni chiude la Settimana Nazionale della Protezione Civile con l'allestimento di banchetti informativi che mirano a diffondere la cultura della prevenzione. Quest'anno, per la prima volta, al tradizionale appuntamento sui rischi di terremoto, maremoto e alluvione si aggiunge il rischio incendi boschivi, per il quale Trieste è stata individuata dalla regione come piazza sperimentale. Nel capoluogo regionale il banchetto informativo è stato allestito questa mattina in piazza della Borsa. A Pordenone invece i volontari sono presenti all'inizio di corso Vittorio Emanuele II. Altri punti informativi sono poi presenti a Gradisca di Sonzo, Latisana, San Giovanni al Latisone, Gorizia, Mortegliano e Tavagnacco. Alle 12.40 diamo uno sguardo al tempo, il cielo è sereno sulla costa, da nuvoloso variabile su pianure e montagna. Le temperature a Trieste 22 gradi, mare poco mosso con temperatura di 23 gradi, a Gorizia 22 gradi, a Udine Pordenone 21. A Tarvisio 18 gradi, a Tolmezzo 17, a Forni di Sopra, a Piancavallo e a Sapada 13 gradi, sul Monte Lussari 9 gradi, sullo Zoncolan 8, a Lignano 24 gradi, a Grado 23. La temperatura del mare in queste due località è di 22 gradi. Queste le previsioni. Nel corso della giornata saranno possibili deboli piogge locali. Sulla costa, vento moderato da sud che potrà favorire delle schiarite. Nella tarda sera, peggioramento con piogge più diffuse e consistenti, forse anche temporalesche. Domani, domenica, cielo in prevalenza nuvoloso, con piogge in genere intermittenti moderate a ovest, abbondanti a est, localmente forse anche temporalesche, specie sulla costa, dove potranno anche essere intense. Neve sulle vette delle Alpi Giulie. Sofferrà bora moderata che dal pomeriggio sarà sostenuta su pianura e costa, specie a Trieste. Miglioramento dal pomeriggio a partire dalla Carnia. Decisamente fresco in serata. Il comune di Trieste informa che a causa delle previste condizioni meteo avverse i giardini pubblici comunali recintati saranno chiusi al pubblico domani fino a miglioramento della situazione. Suscitano come sempre interesse e curiosità i siti aperti al pubblico oggi e domani per le giornate FAI d'autunno. 23 i luoghi da scoprire in regione. A Trieste siamo andati a cogliere le impressioni di chi ha visitato l'interno del Palazzo del Municipio in Piazza Unità. Una lunga e composta coda fuori dal sontuoso palazzo del municipio di Trieste sono le persone in attesa di visitare gli interni grazie alle giornate d'autunno del FAI che aprono luoghi normalmente più esclusivi. È il caso della sala del consiglio comunale. Accomodati sugli scrani lignei dove di solito sono seduti i consiglieri, i visitatori attenti e incuriositi, incantati dal grande quadro di Cesare Dall'Acqua raffigurante la prosperità di Trieste. Poi è la volta del salotto azzurro, sede istituzionale del sindaco, dove dal 1800 vengono ricevuti ospiti internazionali della città. Infine la galleria con i ritratti del podestà e dei sindaci della città. E se, come spesso succede, il pubblico delle giornate del FAI è piuttosto avanti con l'età ma sempre entusiasta, pochi sono i giovani, ma sono preparati e motivati. Sono occasioni uniche, non possiamo perderle, ci dicono in coda. E poi vi sono i ragazzi portati dai genitori. A scuola, racconta un ragazzo, si studia pochissimo la storia della nostra città, a me invece interessa molto. Giovani sono sicuramente le guide, le giornate sono infatti promosse dal gruppo FAI Giovani di Trieste, tra loro Giada, architetto e volontaria da un anno. Il patrimonio è in mano nostra, è nostro dovere non solo averne cura ma anche aprirlo a tutti, dice. A Trieste il FAI tra oggi e domani, oltre al municipio, apre le porte della sede centrale dell'università, la Pinacoteca del Rettorato. Io sono un ex studente dell'università, racconta un ragazzo arrivato a posta da Udine. Ci sono posti che davvero prima non avevo mai visto, nonostante abbia studiato qui per 5 anni. Ecco, per me è davvero un'occasione unica. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Al Centro Nautico di Aprilia Marittima è stata inaugurata questa mattina la 36esima mostra nautica delle imbarcazioni usate Nautilia. È un settore in crescita dato il ridotto potere d'acquisto, in particolare sui beni non essenziali. Già prima dell'apertura c'erano persone in fila, arrivate ad Aprilia Marittima, alle porte di Lignano, da buona parte dell'Europa per comprare la barca dei sogni a un buon prezzo. Tedeschi, austriaci e svizzeri per più di metà del pubblico acquirente, ci dice l'organizzatore di Nautilia, unica fiera delle barche usate in Italia. Il resto sono sloveni e italiani, in arrivo dal Friuli Venezia Giulia e non solo. Più richieste sono le imbarcazioni a vela o a motore di dimensioni medio-piccole. In vendita ci sono in tutto più di 250 barche a vela o a motore entro o fuori bordo, gommoni e natanti, motor yacht con dimensioni che spaziano dai 4-6 metri fino ai 20-22 metri. I prezzi escono fuori spesso da una trattativa, ma vanno dagli 8.000 euro di una piccola barca a motore ai 790.000 di un maxi yacht di lusso. A chi acquista, Nautilia offre anche un'assistenza post vendita per il refitting e la manutenzione. Negli ultimi 2 anni il mercato delle barche Marche è esploso. Dopo la pandemia è aumentata la voglia di viaggiare o di passare weekend su un comodo isolato mezzo privato, preferibile per molti alla folla di spiagge e alberghi. Con l'aumento dell'inflazione i costi per il nuovo sono schizzati alle stelle, pompati dalla carenza di materie prime e componenti, e i tempi di consegna continuano a essere lunghi, incoraggiando il ricorso all'usato. Il pubblico cresce dunque a ogni edizione. Si stima che quest'anno saranno 7.000 i visitatori totali tra le barche esposte su terra, particolarità di Nautilia. La fiera proseguirà fino a lunedì 16 e poi da venerdì 20 a domenica 22 ottobre. Aprilia Marittima, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Il boom dell'inflazione ha causato una forte rivalutazione del trattamento di fine rapporto che alle piccole imprese del Friuli Venezia Giulia potrebbe costare quest'anno fino a quasi 2.600 euro in più per ogni dipendente. I calcoli li ha fatti l'ufficio studi della CGA di Mestre, ricordando che i dipendenti delle imprese con meno di 50 addetti hanno la possibilità di trasferire il proprio TFR in un fondo di previdenza complementare oppure di lasciarlo in azienda. Buona parte opta da sempre per la seconda ipotesi e quindi ogni anno l'ammontare del TFR accantonato viene rivalutato in base all'inflazione, diventando più pesante sui bilanci delle aziende. Secondo le elaborazioni della CGA, la rivalutazione del TFR di un lavoratore che timbra il cartellino da 5 anni nella stessa azienda provocherà nel bilancio 2023 un incremento dei costi pari a 593 euro, importo che sale con l'aumentare dell'anzianità fino ad arrivare a 2.594 euro per un dipendente che lavora da 20 anni nella stessa impresa. Siamo alla cultura, serata finale per le giornate del cinema muto di Pordenone, affidata ai film The Pilgrim di e con Charlie Chaplin e Calma signori miei di e con Buster Keaton, entrambi con accompagnamento musicale dell'Orchestra da Camera di Pordenone. L'appuntamento è alle 21 al Teatro Verdi e per il Festival a Pordenone sono arrivati anche ospiti che stanno facendo la storia del cinema del presente e del futuro. Tra questi Craig Barron, sentiamo. I'm enjoying myself very much. This is my first time here. È arrivato a Pordenone per le giornate del cinema muto anche Craig Barron, premio Oscar ai migliori effetti speciali per il curioso caso di Benjamin Button. In questo momento, ci racconta, sta lavorando sulle nuove frontiere della realtà virtuale e aumentata, ma resta un fan del cinema delle origini, da cui dice trae ispirazione. Silent film is the origin of cinema storytelling. And I work in the film industry today, and to see the origins and how people made films before me is inspirational. Ma le giornate hanno richiamato appassionati arrivati da tutto il mondo. Il direttore delle giornate, Jay Weisberg. C'è più gente che arrivano dall'Australia, da Sud America, da dappertutto, Canada, Stati Uniti ovviamente, ma c'è la sensazione che abbiamo tornato come una comunità. Il festival si avvia a conclusione con la serata finale dedicata a due fuoriclasse del cinema, Charlie Chaplin e Buster Keaton, entrambi con l'accompagnamento musicale dal vivo dell'Orchestra da Camera di Pordenone diretta da Ben Palmer. Sherlock Jr. con una nuova partitura in prima mondiale e The Pilgrim con le musiche originali scritte da Chaplin. We know exactly what he wanted us to feel because the music tells us. Pordenone, Natasha Gargano, TGR Friuli Venezia Giulia. Enfant prodige, a 16 anni aveva già festeggiato il suo 1000° concerto pubblico. Il violinista serbo Stefan Milenkovic è stato uno dei protagonisti ieri sera al Verdi di Trieste del 6° concerto sinfonico della stagione. Sul podio Francesco Ivan Ciampa, uno dei direttori più solidi e stimati sul repertorio operistico italiano. Ascoltiamo un breve estratto dal concerto per violino orchestra in re maggiore opera 77 di Brahms. Siamo alla pagina dello sport. È stato svelato ieri il percorso integrale del Giro d'Italia che si disputerà dal 4 al 26 maggio del prossimo anno. In Friuli Venezia Giulia è confermata la frazione che era stata anticipata nelle settimane scorse, la terz'ultima tra Mortegliano e Sappada, che si svolgerà il 24 maggio. Una tappa da 155 km e 3.000 metri di dislivello complessivi che condurrà i corridori sul Passo Duron e a Sella Valcalda prima del traguardo finale. Sentiamo l'intervista al project manager delle tappe friulane, Paolo Urbani. Sarà una tappa naturalmente insidiosa, io credo anche molto frizzante, oltre 150 chilometri che abbraccia l'intera provincia di Udine, lambendo anche la provincia di Pordenone, ma soprattutto con oltre 3.000 metri di dislivello, e quindi ci attendiamo una vera battaglia anche perché giunge al terz'ultimo giorno prima della chiusura del giro. Le salite di questa tappa? Le salite saranno essenzialmente tre, il Passo Duron, poi successivamente la Valcalda e infine naturalmente Cima Sappada, quindi ci sarà da divertirsi. Con la novità del passaggio per il centro biathlon? Sì, questa è una novità assoluta, era già accaduto in Trentino Alto Adige e noi ci abbiamo provato con il direttore del Giro Mauro Vegni e grazie naturalmente al sostegno del presidente Fedriga e della sua giunta siamo riusciti a convincerli che entrare nell'arena di biathlon sarebbe stato un vero e proprio valore aggiunto e noi ci auguriamo sia così. La partenza sarà come abbiamo visto da Mortegliano, naturalmente è una città che in questo momento sta soffrendo, io mi auguro che sia veramente una partenza anche di rinascita per quella comunità. Paolo Roncoletta, TGR Friuli Venezia Giulia. Calcio, amichevole in terra croata questo pomeriggio per l'Udinese che Rijeka alle 17 giocherà contro la squadra locale attualmente prima in classifica nel campionato croato. Oltre che degli infortunati, Sottil dovrà fare a meno dei nazionali, tra cui Lovric, Biol e Samardžić. A Udine resteranno anche Wallace e Paiero, che necessitano ancora di allenamento per recuperare la condizione ottimale. Ci sarà spazio quindi per chi finora ha giocato poco, come il basco Zaraga e i francesi Aké e Camara. Torna in campo oggi anche la Triestina, che nell'ottava giornata del campionato di Serie C, alle 14 al Tognon di Fontanafredda, sfiderà il Lumezzane. Gli alabardati saranno privi di Pavlev, fermo per squalifica, e di Correia, che oggi celebra le sue nozze. C'è naturalmente dispiacere per i nostri tifosi, per quanti non possono seguire la partita come vorrebbero. A maggior ragione ringraziamo chi è venuto e verrà a sostenerci a Fontanafredda, ha detto alla vigilia del match l'allenatore alabardato Attilio Tesser. Spero che una decisione sul ritorno al Rocco arrivi presto, ha aggiunto, spiegando poi che quella con il Lumezzane è una partita importante e difficile contro una squadra forte e di grande spessore. Impegno in trasferta per la Pallanuoto Trieste nella quarta giornata del campionato di Serie 1 maschile alle 18.30 allo stadio del Nuoto di Bologna. Gli alabardati affronteranno la De Acker con la voglia di allungare la serie positiva dopo i 3 successi su 3 ottenuti finora. Gara esterna anche per le Orchette che alle 15.30 scenderanno in Vasca Rapallo in una trasferta insidiosa contro le Liguri. Trieste vuole proseguire la striscia positiva inaugurata con le imprese di Budapest in Eurocup e di Padova mercoledì scorso per confermare il primo posto in classifica. Oggi pomeriggio al Palasport di Chiarbola a Trieste andrà in scena Above the Clouds, oltre le nuvole, una gara internazionale di breakdance organizzata in memoria di Mattia Montenesi, giovane campione triestino di questa disciplina, scomparso prematuramente nel 2021 a soli 15 anni. Il contest, che comincerà alle 14 e proseguirà fino alle 22, sarà anche l'occasione per raccogliere fondi a favore dell'AGMEN, Associazione Genitori Malati Emopatici Neoplastici. Sentiamo ora l'anticipazione dei temi della rubrica Est-Ovest in onda domani alle 11 sulla terza rete televisiva della RAI. Quanto agli approfondimenti esteri radiofonici, ricordiamo Est-Ovest Radio che andrà in onda domani alle 6.05 su queste frequenze. I massacri in Israele, la guerra in Ucraina, il Nagorno-Karabakh, crisi in cui la diplomazia internazionale non riesce a imporre la pace. I polacchi sono chiamati alle urne per decidere il futuro della loro nazione, le polemiche sulla libertà di stampa a Varsavia. Una decisa onda modernizzatrice e una concreta crescita economica spingono l'Albania verso l'Unione Europea. Busioc TV, fondata da un italiano con la sua proposta di musica folk, è in cima a tutti gli indici di ascolto in Moldavia. Il rock industriale dei Laibach, con tragica attualità, trasforma in un'opera Alamut, il romanzo di Vladimir Bartol che ha ispirato Assassin's Creed. Tutto questo a Est-Ovest, domenica, alle ore 11.05 su Rai 3. domani, dopo il giornale radio delle 8.30, andrà in onda Vita nei campi, la rubrica di agricoltura curata dalla nostra redazione. Sentiamo quali sono gli argomenti che tratterà. Vita nei campi, il settimanale radiofonico di agricoltura della nostra redazione, non della domenica alle 8.50 su Radio 1 Rai. Domani in apertura le iniziative del comune di Campoformido per la valorizzazione del suo patrimonio agricolo e ambientale. A seguire la storia di Angelo Floramo che racconta della fame atavica della gente dei campi stemprata nel pranzo della domenica. I prezzi di frutta e verdura continuano a crescere, ma la causa è da attribuire tutta ai coltivatori. E ancora per la rubrica della conservazione e trasformazione alimentare la distinzione tra pastorizzazione e sterilizzazione, per quella dei sommelier la correlazione tra quantità e qualità del vino rispetto alle bottiglie, nella rubrica dei fiori un sempreverde facile da coltivare che con poche cure cresce rigogliosa, la Veronica. In conclusione, andamento dei mercati agricoli, previsioni del tempo e il proverbio friulano. Appuntamento domani alle 8.50 su Radio 1 Rai con Vita nei campi. Udine, Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. Ed è tutto per questo notiziario da Daniele Lettige e Francesca Vigori che lo hanno redatto e condotto. Carlo Morello e Mauro Cumin che hanno assicurato la parte tecnica, Cristina Polselli che ha collaborato in redazione. Grazie per la cortese attenzione, ancora buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.